Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Chi lo frequenta, e ringraziando di Dio siete migliaia ogni settimana, sa che gli ultimi servizi li ho dedicati a quello che sta accadendo a Lamezia Terme, nel silenzio totale o quasi dei grandi media nazionale e invece con finestre interessanti aperti dai media locali, carta stampata, radio e televisioni. Cosa sta accadendo a Lamezia Terme? Sta accadendo che un procuratore, un nuovo procuratore della Repubblica, Salvatore Vitello, che è lì da qualche mese, ha trovato un'eredità pesante, ma per un uomo di legge, un uomo dello Stato, straordinariamente interessante, vale a dire i decreti di demolizione di immobili abusivi, decreti che fanno seguito a sentenze passate in giudicato. Questo vuol dire che quegli immobili non potrebbero essere abbattuti, vanno semplicemente abbattuti, senza se e senza ma, questo lo dico io. Il procuratore Vitello si rivolge al genio militare dello Stato, quando la città è già in trambusto per questa notizia, sapete com'è, alcune procure sono anche abituate a sonnecchiare, Vitello non sonnecchia, quindi chiama il genio militare e dice: caro genio militare, comincia ad abbattere quell'immobile, quel magazzino, quel capannone, apriti cielo, blocchi stradali, gente che scende in piazza e meravigliose scene, un tripudio che io ho descritto anche sul mio blog, di persone che gridano alle forze dell'ordine: mafiosi, mafiosi, mafiosi, ripetuto 3 o 4 volte, anzi un coro. Perché? Perché erano lì per abbattere degli immobili abusivi. Ho preso posizione, non poteva essere diversamente, sul mio blog. Sapete che sono sempre dalla parte della legalità, gridando forza ruspe. Questo ha dato adito, lo vedrete anche sul blog, a moltissimi commenti negativi di gente che mi infanga. Continuate, sono felicissimo. Allora, per parlare di questo, noi abbiamo oggi come primo interlocutore, guarda caso, proprio il procuratore capo alla Lamezia Terme, Salvatore Vitello. Buongiorno, procuratore. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, caro procuratore, lei un buon giorno si sveglia la mattina e dice: vogliamo dar corso a queste demolizioni, come la prendono i suoi uomini? Beh, intanto non è, diciamo così, nel senso che non è che mi sono svegliato la mattina. Sì, io amo i paradossi. Ho deciso di intraprendere diciamo un'azione sicuramente doverosa. Ricostruisco la vicenda anche sul piano genetico. Stiamo parlando sul piano, come dire, tecnico, di sentenze passate in giudicato con condanne per reati di abusi edilizi. Queste sentenze sono passate in giudicato e il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, oltre ad dare la pena edittale, che normalmente è l'arresto con l'ammenda, ha stabilito per un obbligo di legge, è il DPR 380 del 2001, ha stabilito la demolizione dell'opera abusiva. La demolizione dell'opera abusiva quindi è contenuta in una pronuncia giurisdizionale. Certo. Il giudice di questo Stato ha stabilito in sede di condanna, oltre a infliggere quindi la pena prevista dalla legge, ha disposto la demolizione. Nel momento in cui la sentenza diviene esecutiva, bisogna che questa sentenza sia effettivamente eseguita. Esatto, vuol dire che qualcuno deve andare lì e fare in modo che sia eseguita. Peraltro, esatto, questa, chiamiamola così, è demolizione disposta in sentenza, quindi demolizione contenuta in un titolo che è costituito da una sentenza di condanna, e possiamo definirla demolizione giudiziaria, che è parallela a quella amministrativa, tant'è vero che nella pronuncia di condanna viene detto: si dispone la demolizione dell'immobile abusivo qualora non sia stata già eseguita. Ma questo vuol dire che voi avete avuto un ruolo suppletivo, mi corregga se sbaglio. È un ruolo, come dire, chiamiamolo residuale, anche se il termine non è esatto. Non è intervenuto, siete intervenuto voi. Questo... La demolizione intanto è un atto amministrativo. Certo. Se il comune non demolisce perché vi è, nel momento in cui si accerta l'illecito urbanistico si apre un procedimento amministrativo, e il procedimento amministrativo è caratterizzato dall'ordine, dalla sospensione dei lavori e dall'ordine di demolizione e riduzione in pristino che emette il comune. Mi corregga se sbaglio, dottor Vitello, quindi vuol dire che finora le amministrazioni che si sono susseguite, le giunte alla guida del comune di Lamezia Terme, non hanno adempiuto a questo obbligo e quindi a quel punto non poteva che intervenire lei. Il dato certo, perché come dicevo poc'anzi, la demolizione giudiziaria interviene laddove non è stata disposta, o meglio, non è stata eseguita quella misura. Benissimo. Ecco, dottor Vitello, io con lei vorrei venire ad un punto focale, perché questa è una lotta dello Stato, della legalità contro l'illegalità. C'è poco da fare, io la vedo così, per me o è bianco e nero. Difficilmente quando si parla di legalità vedo il grigio. E lei, voglio dire, è stato un treno in questo, quindi va benissimo così per quello che riguarda me e i radioascoltatori che seguono questa trasmissione, vale a dire, ha detto no, io devo eseguire queste sentenze, quindi ha cominciato anche ad abbattere i capannoni di una famiglia, la famiglia Giampà, il cui titolare non ha alcuna pendenza giudiziaria, però insomma la famiglia Giampà qualcosa vuol dire, no, alla Lamezia Terme, giusto Vitello? Beh, guardi, le dico subito, la famiglia Giampà, qui i Giampà sono tanti e poi ci sono varie parentele, quindi certo. Non si può fare assolutamente, no, assolutamente, generalizzazioni, perché ci sono Giampà che sono persone per bene pure. Assolutamente. L'aspetto, come dire, della criminalità organizzata in questa vicenda non rileva. È residuale, diciamo. Non rileva, perché noi abbiamo guardato di dare esecuzione a sentenze di condanna, quale che sia l'autore dell'abuso. Certo. E quindi senza avere nessun preconcetto nei confronti di nessuno. Perché, come le dicevo prima, è completo il ragionamento di prima, questa iniziativa era già iniziata con il mio predecessore, che ha avuto, diciamo, lui è anche il pregio di attivare questa attività. Sì, ricordiamolo, Raffaele Mazzotta, che poi il dottor Mazzotta, esatto, che poi è lui, questa esatto. È un'attività che io ho sviluppato, ho portato a compimento, ma va dato atto che l'aveva iniziato il dottor Mazzotta, perché nel momento in cui la sentenza passa in giudicato, secondo, come dire, un protocollo che è stato oggetto di discussione anche tra varie procure e che trova soprattutto il suo aggancio in una convenzione che il Ministero della Giustizia ha stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Difesa per l'intervento dell'esercito, del genio guastatore, come poi è stato qui. Secondo questa convenzione è stato istituito un protocollo che poi è stato realizzato da varie procure e che io ho puntualmente eseguito e che, come dire, si articola in questa maniera. C'è la sentenza di condanna passata in giudicato, bene, subito dopo la Procura della Repubblica emette una ingiunzione a demolire, con invito a demolire entro 90 giorni, avvertendolo che A, se non demolisce si interviene d'ufficio, B, che può fare ricorso al giudice dell'esecuzione se si contesta il titolo esecutivo, cioè la sentenza di condanna, perché uno può dire, dopo la condanna ho avuto la concessione in sanatoria, certo, allora questo certo, blocca certo. L'esecuzione perché ha regolarizzato, certo. Oppure può dire anche, ho demolito da me, quindi non è più necessario. Bene, io mi sono trovato con questa procedura già iniziata in relazione a 11 costruzioni abusive. Questa procedura si è sviluppata secondo queste cadenze, ordine di demolizione notificato nel 2007, a seguito di questo ordine di demolizione nessuno ha fatto niente, i vigili hanno fatto un sopralluogo e hanno verificato che le opere non erano demolite. Certo. Successivamente si è utilizzata questa convenzione con il Ministero della Difesa e il Ministero della Difesa ha mandato tecnici del genio guastatore di Palermo, sono andati a visionare i luoghi. Il genio, prima di intervenire, fa una valutazione tecnica di fattibilità dell'opera. E indubbiamente, quindi, perché possono esserci casi anche in cui l'opera non può essere abbattuta diritto superiore. Ecco, ma le chiedo questo, Vitello. Non può essere abbattuta non per, diciamo, diritti superiori, perché tecnicamente non è possibile accedere, per esempio. Sì, certo, certo. Tecnici, certo. E quindi quella va fatta, diciamo, utilizzando altri mezzi, cercando di utilizzare una ditta privata. Ecco, ma io le chiedo questo, Vitello, perché il tempo ormai va scemando. Quando vi troverete di fronte a case abitate, come vi comporterete? Allora, abbiamo chiesto al sindaco di provvedere con soluzioni alternative, perché se c'è una famiglia che vi abita, vi è la necessità di assicurargli un alloggio alternativo e quindi di fare intervenire i servizi sociali per tutte quelle questioni attinenti alla problematica alloggiativa di quella famiglia che si verrebbe a trovare senza avere una casa. Quindi è il comune che deve intervenire in buona sostanza nei confronti di quelle... È una competenza istituzionale del comune, certo. Per quanto riguarda, diciamo, questa forma di collaborazione necessaria a consentire l'esecuzione dell'immobile anche abitato, perché certo. Non ci sono, qui non ci sono esenzioni, è un problema, come dire, di buonsenso. Certo, deve essere il comune che deve trovare una soluzione alle persone che abitano degli alloggi che sono alloggi abusivi. Il comune si è fatto carico di questa cosa e però ha chiesto più tempo. Detto, però vi dovete dare la possibilità di andare a verificare, di mandare i servizi sociali e di vedere come che soluzioni trovare a certo, queste famiglie. Certo. E queste le abbiamo posticipate, non come dire accantonate, perché non è possibile. La sentenza esecutiva e va rispettata. Certo. La sentenza emessa da un giudice di questa Repubblica deve essere eseguita quando si deve eseguire. Questo è il concetto. Assolutamente. Quindi ora starà al comune trovare le forme necessarie per dare un alloggio a coloro i quali un alloggio non avranno più, perché quell'immobile dovrà essere abbattuto. Io ringrazio il procuratore capo della Repubblica della Lamezia Terme per il suo intervento e do appuntamento a domani ai miei radioascoltatori, perché parleremo ancora di questo con due ospiti politici. Grazie in regia Fabio Cantadori, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. We'll be right back.